Signore mio e Dio mio, credo fermamente che sei qui. Ci siamo messi alla presenza di Dio e del Signore Gesù e per continuare la nostra orazione di questo giorno, di ritiro, e proviamo a proseguire nella nostra domanda. La nostra domanda a Gesù: Signore, com'è che tu ci hai amato? Evidentemente ciascuno di voi potrebbe rispondere a questa domanda nella sua orazione in modo molto ricco e molto personalizzato, e forse e con molta più ricchezza di contenuti, però noi possiamo comunque provare a fissare questo amore di Dio per noi su alcuni temi, perché questo è il nostro modo di procedere, di ragionare, no? Dobbiamo mettere l'attenzione della nostra mente su qualche aspetto, no? E allora mi veniva in mente che lo stesso Vangelo di Giovanni, ma anche se prendessimo altri Vangeli, ci suggerisce il tema successivo, no? Quando noi nella stessa meditazione di stamattina, anzi nel Vangelo della Messa di questa mattina, quando leggevamo quelle parole di Gesù, quel nuovo richiamo all'amarci come Lui ci ha amati, e poi Gesù aggiungeva: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Allora noi possiamo mettere l'attenzione in questa meditazione su questo modo di amarci del Signore, che dopo averci creato, dopo averci anche elevato alla dignità di figli di Dio, in questo già è inclusa una chiamata, no? La chiamata ad essere suoi figli, la chiamata battesimale, no? ad essere cristiani, cioè a vivere la nostra vita in Cristo. Però poi tutti sappiamo che c'è una specificazione di questa chiamata, no? Una chiamata specifica viene definita così abitualmente, e non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, detto proprio a questi discepoli che lo seguivano all'inizio, che leggevamo: che cosa cercate, dice Gesù, e dove abiti, maestro, dove dimori? Allora, detto proprio a loro, che potevano avere l'impressione di essere stati loro a cercarlo, no? A sceglierlo, invece gli chiarisce com'è la situazione. E di fatto anche sappiamo che questa è proprio una differenza che c'era tra il Rabbi Gesù di Nazareth e gli altri maestri che circolavano allora. Gli altri maestri venivano scelti dai discepoli, e invece in molti brani del Vangelo si vede che è Gesù che dice: seguimi. In fondo anche a questi stessi due, Giovanni e Andrea, poi in altri Vangeli si nota la chiamata di Andrea, di Pietro, di Giovanni, di Giacomo. Sulle rive del lago Gesù passa e dice: seguitemi, vi farò pescatore di uomini. Per cui, pur avendolo conosciuto in qualche modo di loro iniziativa, ma possiamo dire anche che è stato Giovanni Battista che li ha instradati, no? Che li ha mandati. Però Gesù chiarisce che è stato lui a chiamarci. In effetti anche subito dopo, quello che accade dopo fa capire come questa chiamata di Dio si mescola con l'iniziativa umana, con la nostra collaborazione. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. E sapete come procede il racconto, no? Che Natanaele reagisce in modo un po' critico, gli disse: Natanaele, da Nazareth può venire qualcosa di buono? E Filippo gli rispose: vieni e vedi. Mettendo l'Evangelista in queste parole di Filippo una risonanza delle stesse parole che aveva detto Gesù: venite e vedrete, vieni e vedi. L'incontro con Gesù è un'esperienza che viene anche facilitata dall'amico, dall'amico che porta, che invita, che suggerisce. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. E Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E da quel momento evidentemente Natanaele cominciò a seguirlo insieme agli altri, si è sentito chiamato, possiamo dire così, fin dall'eternità, chiamato, conosciuto da sempre, però l'incontro con Gesù avviene in quel momento e da quel momento in poi lui comincia a seguirlo. Ciascuno di noi, vi ricordate che San José Maria nell'omelia sull'Avvento di Gesù che passa diceva, parlando della vocazione, diceva: ciascuno di voi se raccontasse ad alta voce la sua storia, la sua vicenda, allora tutti noi comprenderemmo che è una storia divina. E forse anche scopriremmo, lo scopriamo quando ci raccontiamo tra noi la nostra storia, che ci sono degli elementi comuni. Ci sono delle situazioni comuni, però ci sono delle caratteristiche assolutamente personali. Ciascuno di noi, se facesse la sua orazione ad alta voce, racconterebbe come, in che momento si è sentito chiamato dal Signore a seguirlo più da vicino, a dedicargli tutta la propria vita, a sentirsi totalmente suo. E anche a capire, forse in modo non così chiaro o a volte chiaro, a che cosa lo chiamava il Signore. In questo ciascuno di noi, forse a un certo punto della propria vita, forse proprio quando abbiamo conosciuto l'opera, perché la missione dell'Opus Dei nella Chiesa è proprio quella di rivelare, di svelare, di diffondere la vocazione di tutti alla santità, no? Allora, ecco, perlomeno questa vocazione che è di tutti, ma proprio di tutti, c'è un momento in cui noi l'abbiamo compresa, ci siamo sentiti chiamati ad essere santi. Cosa vuol dire essere santi, Gesù? Nell'Antico Testamento Dio dice: Siate santi come io sono santo. E nel Vangelo viene intesa appunto la santità come seguire Cristo, stare vicino a Lui e vivere la sua stessa vita. Nelle lettere degli Apostoli poi questo vivere la vita di Cristo viene concretizzato in tanti modi, si nota la vita del cristiano. E senz'altro, per esempio, si nota in quell'amore reciproco forte come l'amore di Dio. Noi che non, nessuno di noi si sente santo neanche lontanamente, nessuno, anzi, se ci chiamassero così, come in fondo i primi cristiani si chiamavano, salutate tutti i santi, dice a volte San Paolo alla fine delle sue lettere, oppure vi salutano tutti i santi, no? Sicuramente lo intendevano in un certo senso, nel senso di coloro che sono chiamati da Dio, che hanno ricevuto il battesimo e quindi hanno avuto il perdono di tutti i peccati, anche se poi continuano ad essere peccatori. Per esempio questa chiamata alla santità, no? Questo essere chiamati a vivere nel cuore di Gesù o essere chiamati a vivere sotto il manto della Madonna o essere chiamati a purificarci frequentemente come cerchiamo di fare nella normalità della vita, nel chiedere perdono al Signore dei nostri peccati quando ci accorgiamo, quando alla sera di ogni giorno, all'inizio della messa e così via, no? Anche all'inizio dell'orazione, all'inizio forse di ogni momento di incontro con Lui noi facciamo un atto di umiltà, un atto di perdono dei peccati, di richiesta di perdono. Don Alvaro, per esempio, lo suggeriva, no? Fare un atto di umiltà all'inizio di ogni momento di preghiera, perché questo ci dispone opportunamente. Non siamo capaci, nessuno di noi è capace di pregare. La preghiera è un dono, è anche una chiamata. Allora, ciascuno di voi può ricordare nell'intimità della sua preghiera, della sua orazione, il momento o i momenti della propria chiamata ad essere santa e vicino a Gesù. I sacramenti che abbiamo ricevuto, per esempio, sono stati tutti una chiamata, no? Non solo il battesimo, che è il sacramento in cui la chiamata alla santità è più evidente, e poi la prima confessione, per esempio, la prima confessione con quella che normalmente alla quale si accompagna pur essendo noi bambini, ma bambini consapevoli di avere dentro questa tendenza al peccato. Quindi mi ricordo la mia prima confessione. Mia madre mi aveva detto mi aveva raccontato la sua prima confessione, non solo a me, che a tutti gli altri, no? Gli altri suoi figli. E, comunque, prima mi ricordo, prima della nostra prima confessione, io avevo 7 anni e pochi mesi, e allora ci racconta la sua prima confessione, no? Era così emozionata che il sacerdote gli doveva domandare lui a lei, no? Gli diceva le cose, no? E allora lei diceva sì tra le lacrime, no? Diceva semplicemente sì alle domande che gli faceva il sacerdote, e poi aveva concluso, come dire, quella confessione con una grandissima gioia intima e spirituale. In effetti, io quello che ricordo è che c'era un sacerdote che era poi il coadiutore così dell'oratorio, molto energico, che mi aveva già un po' strigliato in alcune circostanze, mi aveva fatto dei rimproveri e quindi avevo un po' di paura, quindi cercavo di fare in modo di mettermi nella fila, per ultimo, per non capitare da lui, no? Si chiamava Don Enrico, e invece sono capitato proprio da lui. Cioè, alla fine tutti gli altri erano cobati, io ero rimasto solo, buon ultimo, come sono abituato a essere in tutto, e quindi sono andato da lui. E in effetti, però, mi ricordo che appunto, nonostante questa mia paura di essere trattato male, invece mi trattava molto bene, e anch'io nel mio piccolo ho avuto quella. E ho fatto una confessione, mi pare, dettagliata e ampia, però ho avuto quella, anche quella gioia, appunto, la gioia di liberazione, la gioia della salvezza, no? La gioia dell'essere perdonati, no? Quindi pensiamo, tutte queste sono chiamate di Dio ad essere santi, a seguirlo. Poi, evidentemente, questa è stata la preparazione per la prima comunione, no? Anche noi possiamo ricordare, certo, io la data della prima confessione non me la ricordo, e non so se è la prima volta che mi viene in mente di poterla ricordare, ma si potrebbe ricostruire. La data del battesimo, a un certo punto, e sono andato a ripescarla anche grazie al fatto che Giovanni Paolo II cominciò a dire che bisognava festeggiare la data del battesimo. Però noi eravamo piccolini e quindi la possiamo festeggiare adesso, ma non eravamo mediamente, no? Consapevoli. Il mio fu il 26 dicembre, essendo nato l'8 dicembre, è un po' tardi, però era rispetto a quella che era l'abitudine di allora, ma comunque. E quella è la data del battesimo. Poi la prima confessione, ci ricordiamo la prima comunione, e San José Maria gli piaceva proprio festeggiarla interiormente, e anzi, in realtà, poi anche nell'opera, anche i suoi figli la festeggiano, no? Si ricorda ancora adesso, il 23 aprile, no? Il giorno di San Giorgio. In Spagna forse era tradizione farla quel giorno lì, ma anche noi ci possiamo ricordare il giorno della prima comunione la gioia di ricevere Gesù che abbiamo ricevuto da bambini. Fra l'altro, ricordandoci queste cose, possiamo anche riempirci di zelo apostolico buono per insegnare ai bambini. A scuola, chi di voi insegna a catechismo ai propri figli, insegnare ai bambini, ai propri nipoti quando sarà il momento. E il Papa valorizza molto, Papa Francesco, giustamente, perché poi è molto vero sempre, no? Il valore delle nonne, no? Che educano la fede. Ci sono anche nel Nuovo Testamento delle nonne importanti. La nonna di Timoteo, no? E che l'ha educato alla fede. Allora ci sono alcune date le donne sono molto, molto brave, no? A ricordare le date. E alcune date, anche la storia d'amore di Dio ha delle date molto importanti che è bello ricordare. Momenti diversi di questo avvicinarsi del Signore a noi, di Gesù a noi, con il suo infinito amore per dirci: tu sei infinitamente amata, tu sei mia per sempre e da sempre. È un invito a essere suoi. Evidentemente dobbiamo corrispondere noi con la nostra libertà, se vuoi, no? Vuoi tu? Ci chiede il Signore, ce lo chiede ancora tante volte, no? Anche nella liturgia della Chiesa. E ribadisce questo invito. Pensate poi al sacramento della Cresima e della confermazione, no? Questa effusione dello Spirito Santo nella nostra anima. Adesso siamo in un'epoca di preparazione alla festa della Pentecoste e possiamo prepararci invocando lo Spirito Santo lungo tutti questi giorni per chiedergli che insieme alla Madonna, sentirci come insieme alla Madonna nel Cenacolo e chiedere allo Spirito Santo, vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, riempi il mio cuore, riempi il cuore delle mie pers delle persone a me care, ma poi di tutta la Chiesa. E di tutto il mondo, porta con me, e per certi aspetti possiamo dire stai portando, no? Una nuova Pentecoste nella Chiesa. Ecco, e poi dopo, naturalmente questi sacramenti, soprattutto la confessione e la comunione che si nella nostra vita si ripetono con una certa frequenza o con una notevole frequenza, soprattutto da un certo punto in poi, no? Quando prendiamo consapevolezza del fatto che il Signore è contento di venire dentro di noi. Amatevi come io vi ho amato, come ci hai amato, Signore, e come tu ci ami ogni giorno. Con l'Eucaristia, no? Come tu ti doni ogni giorno a noi, a ciascuno di noi, ogni giorno se riusciamo, ma e se no, quando riusciamo a fare la comunione, come tu ti doni ogni giorno a noi, con la donazione piena di tutta la tua persona, no? Di tutta, noi nella comunione riceviamo tutto Cristo, il suo corpo, il suo sangue, la sua anima. E tutta la sua divinità, tutta l'umanità e tutta la divinità di Gesù, come in modo simile a come, simile, diverso evidentemente, ma analogo a come la Madonna lo ricevette. Per cui diciamo, vorrei ti riceverti, Signore, come ti ricevette la tua Santissima Madre. E Giovanni Paolo II diceva nell'Ecclesia d'Eucaristia, quando diciamo Amen nella comunione, è come si ripete quel Fiat di Maria, per cui dopo il Fiat lei riceve il Figlio di Dio dentro di sé. E poi quando si procede nella vita e c'è qualcuno riceve appunto il sacramento del matrimonio che gli dà una collocazione, no? Precisa un po' la sua missione nel mondo, oppure il sacramento dell'ordine, a me, insomma ricorderò il trentesimo, il prossimo 31 maggio. Del sacramento dell'ordine ricevuto dalle mani di Giovanni Paolo II a Roma, e allora era la festa dell'Ascensione, poi dopo quando, che è variabile come sappiamo bene, però poi quando rimane la data, poi ogni anno il ricordo di questo sacerdozio sta nella festa della visitazione di Maria a Elisabetta, no? Quindi ha una caratteristica mariana questo ricordo. Eravamo in 30 della prelatura dell'Opus Dei, poi altri 40 circa di altre diocesi e oltre che di Roma, e una settantina di diaconi, e adesso questi 30 sono sparsi per il mondo. Da qualche anno qualcuno ha avuto l'iniziativa di, perché non esisteva allora, 30 anni fa non esistevano l'uso di internet, le mail, eccetera, ha avuto l'idea di radunare gli indirizzi e quindi ogni anno, prima del 31, partono così, vai saluti, no? E incoraggiamenti reciproci di questi 30 che sono sparsi nel mondo. Uno è vescovo ausiliare di Caracas in Venezuela, la quale anno. E poi altri sono sparsi in Messico, in Germania, in Belgio. In giro per il mondo, no? In Filippine, nelle Filippine, insomma. Allora, questo è solo un esempio cioè, solo una pista per ricordare i momenti nei quali il Signore si è avvicinato a ciascuno di noi per dirci: ti amo, vieni e seguimi. Il mio amore si riversa nel tuo cuore, ti do tutto il mio Spirito Santo e desidero che tu viva la mia stessa vita, cioè la chiamata alla santità. No? I santi percepiscono quelli anche che poi dopo alla fine vengono, sì, appunto vengono riconosciuti dalla Chiesa come santi. Sempre hanno una fortissima percezione della loro indegnità, della loro piccolezza, per cui del loro essere peccatori, no? Ancora quando era in vita, San José Maria diceva: io sono un peccatore che ama Gesù Cristo. Mi sono ricordato di questa definizione di se stesso quando ho visto che il Papa Francesco diceva: e sono un peccatore che Dio ha guardato. In effetti lui ha questo racconto, questo ricordo della sua vocazione del momento. Alcuni, non dico che tutti debbano ricordare il giorno, l'ora, come San Giovanni, erano le 4 del pomeriggio. Ma però a qualcuno può capitare, poi sono magari a volte la vocazione avviene attraverso un cammino, la percezione della vocazione alla santità molto diluito nel tempo, ci sono tante tappe, tanti momenti importanti, tante persone che magari intervengono. Lui si ricorda quella confessione che si è sentito spinto a fare con un sacerdote che non aveva conosciuto prima e che poi all'interno di quella confessione si rese conto che il Signore lo chiamava ad essere sacerdote. Poi passarono altri 4 anni, no, di maturazione finché entrò nel seminario e dopo passò nella compagnia di Gesù. Allora, ricordare le grazie ricevute dal Signore. Questo è un compito che voi fate volentieri e questo può essere anche un tempo propizio, un tempo di tranquillità, di silenzio, di distacco dagli abituali impegni, insomma, ecco, di preghiera. Quello che faceva la Madonna, che conservava tutte queste cose nel suo cuore, conservava, si ricordava. Poi alla fine ci ha detto le cose essenziali e sono, grazie a Dio, sono rimaste nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Luca, quelle che riguardano direttamente lei, o nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Matteo, più quelle che riguardano Giuseppe, che probabilmente, ecco, non sappiamo se pure derivano dal suo ricordo e dalla sua confidenza. Ricordare e ringraziare, perché se questa chiamata ad essere tutti del Signore, ad essere santi, a vivere la sua vita del tutto indegna da parte nostra, del tutto immeritata da parte nostra, è un dono e un mistero, come la definiva Giovanni Paolo II, la sua vocazione, un dono e un mistero. Allora, il ricordare e ringraziare ci dispone a ricevere la grazia, ulteriori grazie, no? Per procedere in questo cammino, per perseverare nella nostra sequela di Cristo, per perseverare nella vicinanza di Lui, per ricevere nuove chiamate, o perlomeno per ricevere nuove chiamate rispetto alla missione che siamo chiamati a compiere. Ogni vocazione ha legato una missione. A volte sono missioni generali che però poi si specificano. Pensate, un sacerdote è chiamato a essere sacerdote di Cristo, ad essere un altro Cristo dal punto di vista sacramentale, a poter perdonare i peccati, a poter celebrare l'Eucaristia, a poter amministrare alcuni sacramenti, solo i sacerdoti possono amministrarli, a predicare con autorevolezza la parola di Dio. Però poi ogni storia è specifica, cioè quel sacerdote attraverso anche il compito che gli dà il vescovo, e va in un posto, in un altro, ha un incarico, un altro. E poi all'interno di questo ambito il Signore gli dà dei compiti specifici, gli affida una persona, per esempio. Gli affida una persona. Ricordate come Giovanni Paolo II era convinto che il Signore gli avesse affidato la banda poltasca, no? Non solo evidentemente, ma questo è un esempio, no? E in qualche modo anche per riparare, per compensare tutte le sofferenze che aveva vissuto nel campo di concentramento, no? Racconta lei nel suo libro, l'intervistatore di un'intervista recente cita quel passo, no? In cui Giovanni Paolo II le diceva, subito dopo l'elezione, pensate, no? E uno dei tratti distintivi, questo è il giornalista, di Karol Wojtyła era la fedeltà nell'amicizia. Wojtyła il 20 ottobre 1978, appena qualche giorno dopo la sua elezione, 4 giorni dopo, possiamo solo immaginare come furono impegnativi quei primi passi del pontificato. Trova il tempo per scriverle una lunga e commovente lettera in cui mostra che cosa rappresentasse per lui la vostra amicizia. Mi permetto di citare qualche passo. Capisci, virgolette, no? Quindi in questa lettera il Papa diceva: capisci che in tutto questo penso a te da oltre 20 anni, da quando Andrei mi disse per la prima volta Duska è stata a Ravensbrück. È nata nella mia consapevolezza la convinzione che Dio mi dava e mi assegnava a te, affinché in un certo senso io compensassi quello che avevi sofferto lì. E ho pensato, lei ha sofferto al mio posto. A me Dio ha risparmiato quella prova perché lei è stata lì. Si può dire che questa convinzione fosse irrazionale, tuttavia essa è sempre stata in me e continua a rimanerci. Su questa convinzione si è sviluppata gradualmente tutta la consapevolezza della sorella, tra virgolette. E anche questa appartiene alla dimensione di tutta la vita. Anch'essa continua a rimanere. E il giornalista dice: da queste parole si capisce bene che per Giovanni Paolo II lei è rimasta Dusia, sorellina, e lui Brat, fratello. Da papa, Karol Wojtyła voleva confermare tutte le sue vecchie amicizie. Infatti poi lei dice: la vera amicizia dura per sempre, perciò dopo l'elezione a pontefice nei nostri rapporti nulla è cambiato. E voi pensate che, appunto, pensando anche al fatto che lungo la vita, no, può esserci anche qualche, appunto, la specificazione può cambiare, beh, questi sono casi un po' eccezionali, no? Quando Cardinal Ratzinger nel funerale di Karol Wojtyła diceva e ricordava i tre famosi seguimi, no, della sua vita, no? Che poi più o meno corrispondono a sacerdote, vescovo, papa, no? In cui lui aveva detto di sì, no? Ma quello che lei racconta, racconta di quel giorno, no? Quando dice in Polonia si sapeva che il nostro arcivescovo godeva di buoni contatti in Vaticano ed era apprezzato da tantissimi porporati. Per di più, Papa Paolo VI lo chiamò per predicare gli esercizi spirituali per la curia, fu una scelta rilevante. Il 78 fu un anno particolare. Io e la mia famiglia stavamo passando le vacanze insieme con Monsignor Wojtyła in montagna. Il 6 agosto, durante la prima colazione, ci confidò: "Non sogno mai niente, ma stanotte ho sognato Paolo VI che mi faceva segno". Quello stesso giorno abbiamo appreso dalla radio della morte di Papa Montini. Brat, che significa fratello, lo chiamava così. Lo chiama ancora così, rimase con noi fino all'8 agosto, quando partì per Roma, via Varsavia, fece ritorno in Polonia al termine del conclave che portò all'elezione del cardinale Albino Luciani. Ma a settembre arrivò la sorprendente notizia della morte anche del nuovo pontefice. Quando ci siamo incontrati a fine settembre ci disse: "Speravo di avere più tempo". Salutandolo gli chiesi: "Quale nome sceglierai da papa?" Al suo posto rispose mio marito: "Ma è ovvio, Giovanni Paolo II". Lui invece non proferì parola. Partì da Cracovia l'8 ottobre, il nostro successivo incontro ebbe luogo a Roma, quando lui era già Giovanni Paolo II. Vorrei aggiungere che tanti, tanti anni fa la mia mamma aveva profetizzato che lui sarebbe diventato papa. Anche queste cose che sono un po' straordinarie, no? Per esempio le profezie che esistono. Però ci fanno capire, sono una rivelazione del fatto che il disegno di Dio è eterno, c'è prima. E anche per la nostra vocazione normale, semplice, quotidiana, è nascosta, dobbiamo pensare che è così che il Signore ci ha scelti fin dall'eternità perché fossimo santi al suo cospetto, nella carità. Allora, anche per questo aspetto dell'amore di Dio per noi chiediamo l'intercessione della Madonna perché ci aiuti a capirlo e ad approfondirlo e ad essere grati sempre di più.